noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ragazzi, questa settimana la chiudiamo con il botto. Giovanni Capuano innanzitutto è qui con me. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao Pier. Pardo al telefono. Ciao. Ricordati di compilare quella cosa formale lì. Passiamo alle cose formali e poi domenica facciamo tutto in clima schedina. Anche noi, passiamo alle cose formali, siamo già 2-0. Questo aggiornamento. Due le volte con situazioni proprio del minuto. Hai concesso il vantaggio, Pardo? Anche ho concesso il vantaggio, la prima puntata, la prima partita l'ho persa per colpa del VAR non applicabile in Bologna-Torino. No, vabbè, è da cronaca, non è lo sanno tutti, poi se vogliamo un giorno comunque scopriremo. Trovate tutto su Twitter, convocati, buongiorno. Per essere precisi, perché io ormai veramente non so più che cosa fare. Non voglio prendere le difese di Pardo che non ne ha bisogno, però come ha detto Allegri oggi, il bello deve ancora venire, cioè comincia adesso. In primo luogo, e in secondo luogo, ragazzi, prepariamoci perché non so con quanti anni di ritardo, ma potremmo accodarci all'Inghilterra che ho già detto, il mercato si chiude prima dell'inizio dei giochi. E poi ci accoderemo alla Spagna, poi vi racconto una notizia che gira. Bene, intanto facciamo tutti e tre gli onori di casa al presidente del Torino, ormai delle voci più ascoltate ovviamente del calcio italiano, Urbano Cairo. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, io voglio sentire, non so, poi Pardo e Capuano, dalla sua viva voce il che cosa si intende, lo spieghiamo agli ascoltatori, interpretazione autentica si chiama in legge, che cosa si intende per lodo Cairo, applicato alla Lega Calcio naturalmente. Non c'è nessun lodo, semplicemente diciamo che siamo arrivati a un punto che poi è un punto che hanno condiviso un po' tutti, ed è il fatto di partire da quelle che erano le riforme più importanti, non parlare tanto di nomi, presidente uno, consiglieri gli altri, eccetera, che poi magari avrebbero dovuto dimettersi dopo 3 mesi, che era abbastanza poco logico. Ci hanno commissariato ad aprile sulla base del fatto che non si trovava un accordo per nominare un presidente stabile e un consiglio stabile, poi arrivi 4 mesi dopo per nominare un presidente di 3 mesi. Diventava una cosa abbastanza ridicola, per cui il mio concetto era: ragioniamo sulle cose da fare, che sono cose utili per la Lega, per il futuro a livello di linee guida, eccetera, poi traduciamoli in uno statuto e poi eleggeremo i consiglieri, così come poi troveremo il presidente, ma soprattutto la cosa importante è: facciamo della Lega un organismo managerialmente condotto. Cioè, quindi si arriva che uno comanda per tutti ed è uno che viene da fuori? Sì, ma non è che comanda per tutti in maniera autoritaria. In America funziona così, però, in America funziona così. Sì, cioè, comanda, ma non è che comanda, avrà un budget. Governa, insomma, diciamo, ci sarà un piano industriale, che ne so, biennale, triennale, un budget collegato che verrà approvato dall'assemblea, dal consiglio tendenzialmente, e poi dopodiché lui governerà. Quindi in maniera assolutamente logica. Per cui dico, però la cosa importante è: facciamo come fanno in Spagna, come fanno in Inghilterra, e cioè diamo la responsabilità a un manager o a più manager, che poi si troverà una sua squadra, che sono scelti in maniera logica, in maniera andando a cercare il curriculum, a vedere chi ha fatto cose importanti in passato in varie attività, e dopodiché diamo anche delle autonomie, perché il tema è, io ho anche detto, negli ultimi 5 anni quello che è stato fatto alla fine ha portato una Lega ad avere un incremento dei diritti più o meno dal 2012 ad oggi di un 20%, 25%, quando nel frattempo la Premier League ha fatto 3 volte tanto di fatturato, quando la Liga ha più che raddoppiato, quando la Bundesliga ha fatto 2,5 volte. Però, presidente, se poi c'è uno che governa, non usiamo più il nome comanda, Poi bisogna essere tutti d'accordo. Allora, io ho letto oggi sul Corriere che l'altro giorno avete litigato, c'è chi ha usato anche frasi, insomma, non le stiamo a ripetere, ma può capitare in un'assemblea. In politica. Ad esempio, gli spagnoli, notizia di oggi del Financial Times, stanno trattando, il presidente della Lega spagnola tratta per portare Real Madrid e Barcellona a giocare partite ufficiali della Liga in Cina o negli Stati Uniti. Io ricordo che quando lo disse De Laurentiis nel 2015 sulla Serie A, fu preso a pernacchie. Ma poi se uno governa fa gli sport americani, l'NBA lo fa da tempo. Parlo, devo aggiungere qualcosa così cumuliamo le domande per No, io volevo sapere a proposito di Inghilterra se è d'accordo con la notizia del giorno, cioè con il mercato chiuso 48 ore prima della prima giornata. Quest'anno Zappacosta, tanto per essere chiari, non sarebbe stato venduto, o magari sarebbe stato venduto prima, ma insomma, al di là delle situazioni specifiche di una squadra o di un'altra, se le piace questo tipo di innovazione. Ma sicuramente sì, perché secondo me il fatto che il mercato chiuda prima che cominci il campionato è la cosa più logica, più giusta, in modo tale che poi le squadre sono fatte, non è che uno gioca in una squadra e poi due settimane dopo si ritrova in una squadra contro la quale aveva giocato. Sembra una cosa giustissima. Poi Zappacosta adesso è andato via l'ultimo giorno, mi è anche dispiaciuto, però poi era un'opportunità e per lui e per noi. E però voglio dire, poi è chiaro che tutto si sintonizza all'ultimo giorno, che diventa, cioè il 31 d'agosto, che era l'ultimo giorno di questo mercato, diventerà il 7 agosto. Certo, quindi è una convenzione. Inevitabilmente ci sarà poi una concentrazione di affari negli ultimi giorni, però che saranno prima dell'inizio del campionato. Per quanto riguarda poi il fatto delle liti eccetera, non è che adesso io ho letto, non avevo neanche letto l'articolo, l'ho visto adesso, ma no, io non ho letto queste cose, non ho sentito queste cose qua, tu sei queste parole così molto, molto esagerate, no? Non l'ho sentite. Poi in un'assemblea ci possono essere dei punti di vista differenti. La cosa importante è capiamo il fatto che dobbiamo essere gestiti in maniera manageriale, certo, governati, come diceva lei prima, in maniera tale che ci siano delle persone che si occupano soltanto di quello, come accade in tutte le aziende, lo fanno bene, lo fanno con impegno, vanno scelti bene prima, però poi il fatto di avere qualcuno che governa l'azienda o l'associazione in questo caso e lo fa in maniera molto efficace con un gruppo di collaboratori. Io so che la Liga Spagnola ha 250 persone in giro per il, cioè, come dipendenti, ma certo, presidente, ma certo, di cui ce ne sono 50 in giro per il mondo, 10 che affiancano Mediaprox nei diritti, e però hanno avuto dal punto di vista internazionale i loro ricavi da diritti internazionali sono passati da 190 milioni a 630 milioni. Ma e certo, noi siamo ancora fermi a 180 milioni. Cioè, adesso è il momento in cui veramente il calcio italiano, che era un'eccellenza 5 anni fa, quando vi dicevo che noi valevamo 940 milioni e la Premier League 1 miliardo e 3, che poi ha fatto 3 volte, o la Liga 770 milioni, che poi ha fatto più che 2 volte, in quel momento lì il calcio italiano era al secondo posto. Oggi siamo al quarto posto. Certo. Allora dico, perché? Perché abbiamo perso tempo. Abbiamo perso tempo, non abbiamo diffuso il calcio italiano in giro per il mondo, e cosa che andava invece fatta, avendo i contatti con i broadcaster, con le televisioni in giro per tutti i paesi del mondo, l'abbiamo fatto fare ad altri, però abbiamo perso tanto valore, e ci voleva qualcuno internamente all'azienda che la gestisse, l'azienda calcio, quindi la Lega, che la gestisse in maniera manageriale, in maniera efficiente, come succede in tutte le aziende. Ma a lei, ecco, Toro Juve giocato a Pechino piacerebbe o no? Ma perché no? Voglio dire, adesso poi è tutto possibile, è tutto fattibile, insomma, non credo che ci sia da scandalizzarsi di nulla. Ormai è diventato un calcio globale, e quindi è chiaro che però è evidente che c'è anche da tutelare, da preservare il fatto che magari il tifoso del Toro ha voglia di vedersi la sua squadra nel suo stadio, quindi ci sa che poi sì, magari il derby facciamolo a Torino, però magari qualche partita si può anche meno importante per i tifosi, però voglio dire, poi dobbiamo essere aperti alle soluzioni che possono essere vantaggiose, preservando un po' evidentemente quello che è il rispetto del tifo, del tifoso, di chi è legato alla squadra da decine di anni, ecco. Però insomma, io credo che dobbiamo comunque sia ragionare di tutto e cercare poi di dare una spinta importante al calcio, che se no, se continuiamo a fare le cose, io ho detto smettiamola di adottare il manuale Cencelli, no? Per cui un posto a te, un posto a me, eccetera eccetera. Vediamo di fare le cose invece fatte bene, andando a prendere persone che sono competenti e che dedicano tutta la giornata al bene del calcio, alla diffusione, certo, del calcio in tutto il mondo e al miglioramento del calcio in Italia. Che c'è grande equivoco. Ha sentito Ventura questi giorni, e che insomma, lo conosce molto bene. È stata una settimana non facile, forse la prima settimana realmente complicata dopo dopo un anno comunque discreto, più che discreto, per Ventura. Che idea si è fatto? Ma io sì, l'ho sentito, ero anche andato, sono anche andato alla partita a Reggio Emilia a vedere Italia-Israele, poi ci siamo visti dopo la partita, ma mi sono fatto l'idea che chiaramente siamo in una fase in cui sicuramente è una fase un po' di passaggio, in cui hai alcuni grandissimi giocatori che poi hanno ormai in alcuni casi un'età, o comunque sia, ovviamente il tempo passa per tutti, alcuni giovani che stanno cominciando ad entrare, quindi siamo in una fase di passaggio. Credo che il nostro CT Ventura sia molto bravo, io l'ho avuto 5 anni e nella mia squadra ha fatto veramente, certo, cose eccellenti, perché ha sviluppato le conoscenze e le capacità di tanti giovani giocatori che poi sono diventati giocatori importanti per il Toro e per la nazionale. Chiaro, certo, adesso penso a Immobile, penso a Darmian, penso a tanti giocatori che hanno fatto poi benissimo. Zappa Costa stesso, che ha giocato. Zappa Costa, certo, chiaro. Ma sì. Presidente, abbiamo parlato di Lega, di Nazionale, se ha un attimo di pazienza avremmo un altro paio di domande per lei sul fronte invece Torino, cioè casa sua, traffico, un attimo, torniamo subito con Urbano Cairo. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. A tavola. Che pizza. Roncadin. Che pizza. Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... convocati. Allora, le grandi esclusive di tutti convocati con il sottoscritto Pardo e Capuano. Oggi è una giornatona, giornatona. Poi, sì, perché qualità, poi andiamo a Misano, e a proposito di eccellenze italiane, un altro super ospite. C'è la Ducati che arriva a Misano con il pilota italiano primo in classifica, non c'è più neanche un biglietto nemmeno a pagar loro, manco fosse la finale dei mondiali, e poi sarà con noi la Didi Ducati, il numero uno, Domenicali. Intanto adesso il numero uno del Toro e non solo, Urbano Cairo, al quale io vorrei insomma allungare una domanda sul Toro. Iniziata bene la stagione, presidente, granata, 4 punti, 2 partite, obiettivo stagionale, glielo chiedo subito. Sì, ma l'abbiamo detto confermiamo più volte, confermiamo che l'obiettivo è di andare in Europa. Insomma, l'obiettivo è quello, l'abbiamo detto è dall'anno scorso che lo diciamo, l'abbiamo detto, l'obiettivo biennale del Toro con Mihajlovic, che è arrivato da noi appunto l'anno scorso, è di arrivare in Europa. Ci eravamo già andati prima con Ventura nel 2014 e l'obiettivo di ritornarci. È più difficile da quest'anno, presidente? Cioè, con i 4 posti in Champions probabilmente si alza il livello di attenzione e competitività di chi ci prova, tu il dici. Che magari per trascinamento si porta dietro il 5° e il 6° posto, non so, è una sensazione, eh? Ma no, non credo che sia più, diciamo che se è più difficile non è certamente più difficile perché ci sono i 4 posti in Champions, più 3, anzi semmai hai un posto in più e quindi potrebbe essere più facile, però sicuramente è più difficile per il fatto che ci sono squadre come il Milan, per esempio, che si sono molto attrezzate, molto più che non l'anno scorso, pur essendo il Milan andato poi in Europa League, ma anche la stessa Inter ha fatto molto bene, poi si sono confermate evidentemente, a parte la Juve, il Napoli, la Roma, l'Atalanta comunque sia una buona squadra, certo al doppio impegno, insomma, comunque sia c'è molta competizione, però l'importante per noi è quello di guardare per bene in casa nostra. Abbiamo fatto secondo me una buona campagna acquisti, poi il mercato dirà, cioè il mercato, il campo dirà se il mercato fatto è stato un mercato buono, però insomma mi sembra che ci siamo rafforzati, perché abbiamo aggiunto a un attacco già molto buono che aveva fatto molti gol un giocatore come Niang che ha delle grandissime potenzialità, abbiamo un centrocampo che si è rafforzato con Rincon mantenendo però i Baselli, gli Acqua, gli Ovi eccetera eccetera, e abbiamo una difesa che si è altrettanto rinforzata con l'arrivo di Nkoulou e di alcuni giocatori giovani come Lianco e Bonifazi, e poi l'arrivo dell'ultimo giorno di Ansaldi, e poi in porta Sirigu. Insomma, direi che mica male, dai, mica poi male però, a proposito di mercato, presidente, quanto Belotti è stato tenuto ed è chiaramente un'ottima notizia, c'era cioè una clausola, lo sappiamo, c'è qualcuno che ha provato a avvicinarci, ci può fare una telecronaca di com'è andata l'estate, qualcuno che ha provato seriamente ad avvicinarsi a quella cifra c'è stato? Ma allora, diciamo, giustamente come dicevi, abbiamo poi tenuto sicuramente giocatori importantissimi per noi, da Belotti a Baselli, a Riaisi, a Gofalco e chi più ne ha più ne metta, insomma non li cito tutti, ma insomma li conoscete bene, Barre Cassesso eccetera. Si sono arrivati vicini? Direi di no, ma comunque io l'avevo detto chiaro, insomma avevo detto che Belotti non si sarebbe mosso da Torino se non fossero arrivati dall'estero a pagare la clausola di 100 milioni, poi fossero arrivati dall'Italia, non lo so, a quel punto lì avrei dovuto ragionare se derogare a questa cosa, ma l'obiettivo era di mantenersi fedele a quella che era la clausola che abbiamo stabilito con Belotti a novembre dello scorso anno, e quindi se qualcuno arrivava a pagarla, allora lì io stavo le mani e non potevo fare diversamente. Se non fossero arrivati come non sono arrivati, allora saremmo rimasti così, cosa che io avrei assolutamente preferito, perché l'obiettivo di tenere Belotti era un obiettivo importante che avevamo, certo. E per noi avere lui e avere un attacco con Belotti, Diai, Thiago Falco, Niang e poi Berenguer, Bosé eccetera eccetera è tantissima roba, come si suol dire. Grazie presidente, buon lavoro, a presto. Grazie a voi, a presto. Grazie a Urbano Cairo, presidente del Torino. Insomma, abbiamo capito tutto, mi sembra tutto molto chiaro, dal Lodo Cairo agli obiettivi granata. 4 titoli ci sono, eh? Che dici? Beh, mi sembra che la cosa, anche il Napoli mi pare aver capito che si sia già accodato, anzi addirittura le istituzioni dicono che già nei giorni scorsi abbia parlato esattamente della stessa idea di chiudere il mercato. Ma voi siete d'accordo? Io sono d'accordo a chiudere il mercato prima. Ma stai scherzando? Ma è ovvio. Ma io interverrei già da questo mercato di gennaio. Ma è ovvio. Come fai a non essere d'accordo? Per Luigi, scusami. No, per esempio, come si fa a non essere d'accordo? Salutiamo Ivan Zazzaroni che diceva una cosa anche in qualche modo interessante su Twitter, no? Lui dice che comunque ovviamente per vendere i giornali, che attenzione, vendere i giornali non è un fatto soltanto commerciale ed economico, vuol dire anche che c'è interesse, perché se il giornale viene venduto vuol dire che qualcuno lo compra perché ha interesse a comprarlo, quindi non è una cosa piegamente commerciale. Vendere i giornali significa anche tradotto dire che ci sono persone interessate a qualcosa, quindi non è una cosa brutta. E sicuramente il mercato è divertente, sapete che io non sono un grande appassionato del genere, cioè no, a me non entusiasma, però indubbiamente il mercato è molto divertente per gli appassionati, è un po' una specie di teatro dei sogni, no? Che si apre ogni estate a gennaio, certo. Però io credo che i vantaggi siano nettamente più vantaggi. Chiudere la campagna acquisti poche ore prima del calcio d'inizio della prima giornata è una cosa molto sana, e semmai tutto sarà l'allineamento fra le varie leghe, perché è chiaro che ogni lega ha una sua data di partenza del campionato. Ad esempio gli inglesi partiranno prima di noi, non credo ci siano dubbi su questo, e quindi a quel punto chiudere il mercato una settimana dopo significa però anche con gli inglesi io credo sia un discorso teorico, cioè gli inglesi non è che si muovono così, gli inglesi sono i più ricchi, certo, sono quelli che quest'anno hanno investito 1,5 miliardi sul mercato. Quando arrivano e vogliono prendere un giocatore lo prendono, che il mercato chiude l'8 agosto, 10 o 12, se loro chiudono, che cambia, i soldi quelli sono, appunto, cioè poi alla fine è una questione filosofica, no? Cioè, se lo chiudi l'8 agosto, faccio per dire, o il 14 di agosto, è chiaro che è come se fosse il 31, che cambiano quindi i giorni più. La cosa che ha fatto la Premier non avrebbe mai potuto fare la Serie A e nemmeno il campionato francese. Si può permettere di farla chi ha in mano il bottone. Sono quelli che decidono le regole del gioco. A proposito di questo argomento, oggi ne ha parlato Allegri alla vigilia di Juventus-Chievo. Allegri, tra l'altro, ha parlato anche saggiamente di ciò che rappresenta questa settimana, il vero via della stagione. Ma sentiamo Allegri su questo argomento, mercato. Io spero che lo facciano, perché è una buona notizia non solo per me ma per tutti, e poi dopo dovranno valutare anche la finestra di mercato, se riportarla all'antico a novembre, visto che si anticipa la chiusura del mercato a fine luglio, primi di agosto o lasciarla a gennaio, ma con uno spazio molto più piccolo, perché altrimenti avere un giocatore il primo febbraio, soprattutto quando quest'anno al 20 di maggio è finita la stagione, il tempo di inserirlo e farli conoscere gli altri compagni, gli altri giocatori, sarebbe tempo perso. Allora, così Allegri che ha parlato a novembre, quello di riparazione io la vedo un po' dura, ad esempio con la Champions League in corso. Ti ricordo una volta si chiamava mercato delle foglie morte, sì. per i romantici del tema. Allegri però ha parlato, poi commentiamo tutti insieme, fate la schedina ragazzi, vi divertite voi, però Allegri ha parlato anche di quello che rappresenta questo vero inizio di stagione, non è più lo spottone, ma adesso si comincia a fare sul serio. Se a fine stagione la squadra ha fatto una stagione importante, quando parlo di stagione importante vuol dire arrivare a marzo come tutti gli anni ed essere a lottare per le tre competizioni, anche se quest'anno la Coppa Italia direi si gioca prima, perché già a dicembre giochiamo i quarti di finale, e quindi siamo pronti per ripartire, inizia la stagione perché le prime due partite fanno parte di un primo pezzo di stagione e ora inizia la stagione vera con un mese dove abbiamo sette partite di cui cinque di campionato e due di Champions. Chiaro? Mi sembra corretto, no, il discorso di Allegri? Intanto Buffon sta fuori domani, gioca Szczęsny e sta fuori anche Chiellini e sta fuori anche Khedira, proprio perché siamo all'inizio di sette partite in 23 giorni, credo, per la Juventus, e quindi Pier, c'è niente da rischiare. Sì, credo che sia, scusate, mi è volte fare in... pronto? Sì, penso che il turnover sia un fatto normale, fisiologico. E poi chiaramente ci possono essere delle motivazioni specifiche legate alle condizioni di Chiellini o magari anche al fatto che la Juve quest'anno ha, con tutto rispetto per Neto, secondo me un vero secondo portiere, cioè un secondo primo portiere in pratica, quindi forse si darà la possibilità di fare un pochino più rotazione rispetto al passato, ma credo che sia... Sì, però sai quante partite ha fatto Neto l'anno scorso? Sì, ne ha fatte parecchie. Ha fatte 14, di 14, cui 8 sì. di campionato. Però il peso di quelle partite non è stato enorme, sinceramente, cioè al di là dei numeri, sono 14 partite abbastanza marginali. Detto questo, vabbè, portiere della Coppa Italia sicuramente. Detto questo, io credo che il turnover, fare il turnover in maniera scientifica, sia fondamentale per le grandi squadre, e mi pare dalle prime uscite che abbia cominciato a farlo anche Sarri. Secondo me per Sarri è il vero grande banco di prova, perché sappiamo che Sarri per impostazione, per cultura, per tradizione è un pochino più legato invece a dei flussi un po' più continui, un po' più all'antica, no? Nella rotazione dei giocatori, un po' meno scientifici. Mi pare dalle prime uscite invece che stia capendo, ha anche una rosa di un certo tipo ormai, è molto più profonda rispetto al passato, certo. che se vuole arrivare fino in fondo, e può arrivare fino in fondo, secondo me questo aspetto è fondamentale. Allora ragazzi, pronti via, dai schedina. Adesso vi divertite voi. Ah, lui già l'ha fatta. Vabbè, ma andiamo alla pubblica, dai, sì. Non solo sui social che non sono sì. accessibili a tutti. Sì, dove arrivano proprio dove tutti. Ragazzi, che cambia fare? Ricordando che siamo 2-2 a 0. E l'anno scorso Pardo è caduta libera, rischia sei in zona retrocessione, Pardo. Ma io ragazzi, non lo voglio dire, avvisa naviganti, non scommetterei neanche un euro su quello che dico io. Cioè io stesso non scommetto su quello che dico. Se volete vincere, puntate su Capuano. Comunque, cominciamo. Vabbè, dai, Juve-Chievo 1. Pronti via. Juve-Chievo 1. 1-1 per tutti e due. Dai. Sampdoria-Roma. Io ho detto X. Io provo il 2, dai. Anche se tu provi la vittoria della Roma. Vabbè. Ok. Inter-Spal domenica 12:30. Tutti uno. Convocati uno. Per Spalletti. Ok. Atalanta-Sassuolo. Io uno. Ho messo 1. Anch'io. Siamo Cagliari-Crotone. 1. All'unisono te l'abbiamo detto. Lazio-Milan. X. 1. Qui c'è una leggera discrepanza, attenzione. Sì. Udinese-Genoa. X. Io ho messo 2. Verona-Fiorentina. X. X. Benevento-Torino. 2. X. Io a Cairo, di prima. Infine, domenica sera, ore 20:45, curiosamente, perché il Napoli poi gioca in Champions League mercoledì, però l'hanno piazzato lì, prima Bologna-Napoli. 2-2-2. Vince il Bologna. Posso dire una cosa, visto che adesso hai dato qualche argomento, questo è un segnale interessante, perché tante volte in passato, in qualche caso anche giustamente, Sarri ha fatto di alcune volte, insomma, giustamente, altre volte meno, però ha fatto dei ragionamenti sul calendario, sul riposo, che sappiamo comunque è un tema fondamentale. E invece stavolta mi pare che la polemica si è spenta subito, nel senso che lui ha detto che era tranquillissimo. Questa scelta, che è oggettivamente abbastanza singolare, perché è vero che Napoli gioca mercoledì, ma è vero pure che gioca in Ucraina, quindi insomma, non è esattamente il viaggio, esatto, più sereno del mondo, appunto. Però la partenza è martedì mattina, quindi insomma tutto a posto. Siamo a inizio stagione, siamo tutti più buoni. Ma non è Natale, ragazzi. Segnali di forza, sono tutti sì, sì, sì. Mi fa De Luca, chiama il time out. Ciao Pardo, ci sentiamo domenica. Ciao, domenica. Ciao. Ciao. Domenica, sì, domenica. Sì. Quando avremo in pugno? Il professor Capuano è qui presente e avremo in pugno il risultato della gara più attesa dell'anno, cioè Misano. Ne parliamo in Racing Team subito dopo la borsa. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Racing Team. Ragazzi, venerdì Racing Team, ma stiamo scherzando? C'è il gran premio più atteso fino a qui della stagione del moto mondiale, cioè Dovizioso, Ducati arrivano a casa da primi nel mondiale. Cosa volete di più dalla vita? Ripeto, e io spero proseguirà il nostro venerdì grandi firme. Intanto saluto Roberto Ungaro che è lì a Misano. Ciao Roby. Ciao Carlo, in diretta da qua. Che succede? Allora, innanzitutto Splende il Sole, questa è una bella notizia, perché c'era la minaccia pioggia, invece è scesa ieri, copiosa stanotte, ma adesso le condizioni sono perfette. Si sente la mancanza del giallo, questo va detto, ma il giallo è diventato rosso. Come hai anticipato tu, è un momento speciale, è un momento davvero unico. Stamattina le prove, Marquez scatenato, vuole rifarsi della disfatta dell'ultima gara, della rottura, è davanti con un buon distacco, ma attenzione perché Pirro, che qui è di casa, secondo dietro lui, e Dovizioso è terzo, ma anche Petrucci è quinto, è messo bene. E domenica attenzione perché potrebbe venire un po' di pioggia nel primo pomeriggio, quindi potrebbe essere a rischio la gara, e io dico occhio a Petrucci se dovesse piovere. Ma Carlo, quello che voglio dirti è che ieri è stata una giornata particolare qui a Misano, un momento storico, si è scritta una pagina di storia, perché Ducati ha presentato qualcosa che rivoluzionerà il suo futuro. Ha presentato il nuovo motore V4, e tu sai che Ducati è da sempre il bicilindrico, ed è stato un modo, e come l'ha presentato anche mi ha colpito, è stato veramente bello, perché all'interno dell'Hospitality, in un momento dove è in testa al mondiale, ma Claudio Nicali l'ha presentato sempre a suo modo, cioè in modo eccezionale, perché il racing, il prodotto ce l'ha nel sangue. Ha fatto vedere un video bellissimo col motore al simulatore, cioè nel banco prova, con il giro simulato del Mugello, e inframmezzavano delle immagini on board della moto, quindi credimi, pelle d'oca, sono riusciti a tradurre quella che è la prestazione, perché il motore è un oggetto meccanico, se sei ingegnere vai in libidine, ma una persona normale poco ci capisce. Loro sono stati bravi a tradurre la prestazione, hanno emozionato, e questo l'hanno reso fruibile, cioè anche la casalinga di Voghera avrebbe capito. Quindi secondo me Ducati ha vinto in comunicazione, in questo è davvero avanti anni luce, ma io mi trovo proprio da loro in questo momento, e allora vorrei coinvolgere la persona che più può parlare di questo, il numero uno. A proposito di venerdì, grandi firme dopo Urbano Cairo, c'è? Ma io vorrei un preambolo per gli amici di Rio 24, perché è una case history. Ciao Claudio, Claudio Domenicali. Ciao. Io quello che vorrei dire ai nostri amici appassionati che ci ascoltano, che Claudio è una case history, perché Claudio, 52 anni di uomo, ha dato la tesi in Ducati e ha lavorato sempre lì, è cresciuto, oggi è amministratore delegato, quindi 26 anni questa azienda, ma non c'è nulla, nessun esempio che possa rappresentare meglio il senso di appartenenza che ha quest'uomo con il DNA del marchio, perché lui è prima di tutto motociclista, ovviamente ingegnere, quando ci sono i progetti è lui il primo che li vuole provare per dare la delibera, ed è una persona, prima si occupa di prodotto, poi di racing, poi a capo. Immaginiamoci un marchionne della Ducati, ma che tipo di marchionne? Cioè prima motociclista e poi capo d'azienda. Questa è una cosa che pochi sanno ed è secondo me un fiore all'occhiello di un nostro marchio italiano ed è una case history. Mi viene da dire che forse un esempio è quello di Ferdinand Pickebel del gruppo che ha guadagnato le Porsche e poi è andato a capo del gruppo Volkswagen. È tutta verità, non è piaggeria nei suoi confronti, ma è bene che secondo me molti lo sappiano. Claudio, io cambiare la propria identità, cioè il motore bicilindrico per Ducati, è coraggioso, ma può essere anche molto rischioso. Le prestazioni pro lo richiedevano e voi siete riusciti a farlo identico a un bicilindrico da vedere, ma soprattutto anche come sensazione alla guida. E solo tu puoi raccontare che cos'è questo oggetto che deriva dalla MotoGP e sarà sulle motostradali del prossimo anno. Ma Roberto, quindi innanzitutto saluto tutti e ti ringrazio per le belle parole che hai detto prima, che forse sono state anche un pochino troppo, ma mi hai quasi messo È verità, Claudio, è verità. Comunque niente, parliamo di questo Desmos 16 stradale che è il nostro nuovo motore V4 per la nostra super sportiva, la Panigale, che introdurremo a Milano, che come dicevi tu è certamente un punto di discontinuità. Noi abbiamo lavorato sul motore bicilindrico, abbiamo inventato il bicilindrico da pista in qualche modo e negli anni 90 con la Superbike l'abbiamo evoluto in continuazione e in un qualche modo abbiamo cominciato a identificare addirittura la marca con questa configurazione di motore. Però dobbiamo in qualche modo riconoscere che anche il Superbike oggi è un po' diventata sempre più complicato, difficile. Il motore è arrivato un po' al limite, l'abbiamo portato fino a 1013 cilindrata, ma fare crescere ulteriormente le prestazioni diventava molto complicato. E dall'altra parte avevamo questo gioiello che è il motore della GP, che realmente è un punto di riferimento assoluto in termini motoristici mondiali. Ormai sono 13 anni che noi sviluppiamo continuamente questo V4 e quindi un po' nella filosofia di Ducati di rendere disponibile per i propri appassionati direttamente i prodotti che poi sviluppiamo anche nelle piste, ne abbiamo realizzato una versione stradale che porta tutti i contenuti del motore della MotoGP, quindi hub da controrotante, la distribuzione degli scoppi asimmetrica e tutte le altre diavolerie che permettono comunque alla Desmos 16 di essere così equilibrata e forte, la renderemo disponibile per tutti i nostri appassionati. E quindi a proposito di corse che possono essere funzionali allo sviluppo di serie, comunque è una rivoluzione epocale, questo l'avete capito tutti, l'hanno capito tutti gli appassionati di moto, ma non solo, per la Ducati e i ducatisti. Giovanni, domenica ci troviamo qui alle 17 per tutti i convocati weekend e non, sarà finita da non molto una almeno per la Ducati la gara più attesa della stagione, per i ducatisti pure. E per il Moto Mondiale comunque una gara molto importante. Quindi cosa chiediamo a Domenicali da questo, se, su questo se anche fronte? Lui sente la pressione che ieri il Dovi ha detto di sentire. Beh, guarda, io faccio questo lavoro da un po' di anni, come hai detto tu. Mi sono quasi sempre in un modo o nell'altro occupato di corse, prima direttamente, adesso ovviamente avendo la responsabilità dell'intera azienda, un'azienda che è così tanto coinvolta nelle corse, la sento direttamente. La pressione c'è, non si può negare, siamo in testa al mondiale e cerchiamo di portare a casa il risultato grosso questa volta. L'abbiamo già fatto nel 2007, quindi Ducati, ricordiamoci, è l'unica azienda non giapponese a aver vinto un titolo nel campionato MotoGP, se dobbiamo andare agli anni 70, perché trovare qualcosa di analogo, altrimenti solo case giapponesi l'hanno vinto. Per cui la pressione c'è. Dall'altra parte siamo anche consapevoli di aver fatto un buon lavoro fino qui e questo mette anche una certa serenità. Poi le gare sono sempre difficili, complicate, dure. Speriamo comunque sia una bellissima giornata di sport. Ma arrivare a Misano così è qualcosa sogno. Che avete progettato quest'estate. Come fai a progettare? Ma neanche il migliore degli sceneggiatori. Marquez progetta che farà la sua stagione, se non è prima e seconda, se non è seconda. Ma voglio dire, ma come fai a progettare la perfezione? Mi piacerebbe capire. Al di là di tutto, con tutto il rispetto, no, ma no, per noi la... per mesi abbiamo parlato, arrivava Lorenzo, cioè c'erano mille situazioni in Ducati. Cioè, è qualcosa che avete in qualche modo progettato o che vi è nato così per le mani? Ma guarda, la bellezza del nostro sport è ancora straordinariamente l'imprevedibilità. Ci sono altre discipline come la Formula 1 in cui è tutto davvero più pianificabile. Da noi il pilota fa una differenza pazzesca. L'affiatamento del pilota con la moto, la chimica, le sensazioni sono di un'importanza straordinaria e devo dire che dalla seconda metà dell'anno scorso abbiamo visto un Dovi che ci è cresciuto in mano e che ci sta dimostrando nelle tutte le gare di quest'anno non solo la velocità che già di lui si conosceva, ma un'intelligenza tattica, ma soprattutto anche un'aggressività nel momento giusto che era impianificabile, per essere veramente onesti. Allora Claudio, io ti ruberei altri 5 minuti subito dopo il traffico, anche perché non voglio levarmi la sottile perversione di lasciarti nelle mani, oltre che di Roberto Ungaro, anche in quelle di Leo Turrini. Ti va? Fantastico, d'accordo, tanti sono qui. Ok, su peggio per te, traffico. I love this game. Tutti convocati. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta Tutti convocati. Allora, ci siamo tenuti un minuto ancora, Claudio Domenicali, numero uno della Ducati, perché non mi voglio far mancare la domanda, la strizzata di Leo Turrini. Ciao Leo! Come andiamo? Tutto bene? Noi bene. Domenicali, a tua disposizione? Beh, io Claudio lo saluto, è un caro amico, sono qui fermo sulla Pero Cormano, dove ci sono ancora da lunedì scorso tutte le Mercedes imparate per la doppietta di Monza, e volevo chiedere al mio amico Domenicali se almeno a Misano vedremo una rossa vincente. Quindi Claudio, rispondimi e dimmi di sì. E dimmi di sì. Per garamanzia non lo faccio, sono obbligato dal ruolo, però devo dire che il Dovi e gli altri ragazzi stanno lavorando veramente duro adesso. Siamo veramente contenti di come stanno andando le cose, ma certamente sarà durissima, perché Mark è in grande forma e darà, come si dice, la vita per arrivare davanti. Lo stiamo vedendo in queste prove qua, anche se si è già steso, e quindi anche lui comunque non è così semplice, ma ha un talento straordinario nello stendersi solo nelle prove, quindi e anche Vignale che è un avversario duro. Questa suona un po' una gufata. Così competitivi, diciamo, insomma, partiamo dai con una bella spinta, vieni. No, mi piace il gergo dei motocicletti. Questa suona un po' già come steso, una oppure si è già sdraiato, oppure se l'è già tirata in testa. No, sono, ma è il talento dire di che farlo è solo nelle prove. Ma è attenzione. Carlo, ti aggiorno, Petrucci davanti adesso in prova, e Dovizioso il secondo, quindi dottor Domenicali, ci siamo? Sì, maestro Gento, ancora in linea? Sono qua. Ma volevo fare la domanda del 100 pistola Domenicali. Vai, che poi lo salutiamo. Per un'intervista sulla carta stampata, ma è più facile che vinca il mondiale Dovizioso o Vettel? Veramente 100 pistola. Ve lo chiediamo tutti. E io penso che Domenicali, Ducati, possa darci una risposta attendibile alla faccia di Bernard, di Genta e di tutti. È più facile per Dovi o per Seb? Grazie. Risponda, commendator Domenicali. L'ho nominato commendatore di Gran Croce adesso per la vittoria di domenica a Misano di Domenicali. Porco cane! Prego, proceda. Bravo, bravo, hai fatto bene anche perché sarai sorpreso, ma poi questo ti chiamo poi fuori linea che ti racconto una cosa. Direi stesse probabilità, perché entrambi sono veramente assecondati da un mezzo straordinario. La Ferrari di quest'anno non l'abbiamo vista in gran forma a Monza, ma non era il suo circuito ottimale per le sue caratteristiche, ma ha dimostrato quest'anno di aver fatto una macchina straordinaria. La nostra moto è a punto in tanti circuiti, i piloti ormai non si discutono più nessuno dei due. Entrambi però, devo dire un però, hanno di fianco o di fronte degli avversari straordinari, perché Vettel con Hamilton e il Dovi con adesso diciamo con Marche e Vignales sono due che si chiamano duro tutti e due, quindi sarà dura per tutti i nostri rossi, però in un paese in cui avere due rosse a due o quattro ruote per cui ti fare per il titolo contemporaneamente, bisogna andare indietro un bel pezzo, bisogna andare nel 2007, quindi infatti vi state facendo una bella cosa, no? Vi state mandando ai pazzi Turrini. Grazie Claudio, grazie. Grazie, grazie, a tutti, grazie a Claudio Domenicali, amministratore delegato Ducati. Naturalmente torniamo da Roberto Ungaro a Misano, perché è lì con, indovina con chi è Turrini, con Belen. C'è Roberto? Ci sono. Ah, sei con Belen, no? No, non, tra l'altro stamattina si è steso Iannone. Si è sdraiato anche lui. Ieri in conferenza ha dichiarato che la sua moto non è proprio una moto eccezionale, quindi insomma un po' di critiche, un po' no, è in un momento no, non c'è niente da fare. Ma ti confermo che Petrucci ha chiuso queste seconde libere davanti a tutti: Vinales secondo, Dovizioso terzo, Pedrosa, Marquez, che come ha detto Claudio si è steso, molto agitato, però è tornato a prendere il tramonto e è rientrato dentro. Cracciol col suo dito che non funziona, sesto, Pirro buon settimo e Lorenzo ottavo. Iannone è risalito un po', nono. Comunque secondo me quello che diceva appunto, che ha detto Claudio, che la Ducati è cambiata tanto, è migliorata e va bene un po' ovunque rispetto a prima. E sento sempre dire che questa non è la loro pista, mi piacerebbe capire il perché, ma secondo me vedremo una grande Ducati e quindi il rosso sarà rimpiazzato al posto del giallo. Carlo, mi spiace, ma è così. Vabbè, oh, no, è così. Spiace, il giallo è davanti alla TV e quindi esatto. È chiaro che si coagula il tifo verso il rosso. La notizia è che si è steso Iannone Turrini la mattina si è steso Iannone. Leo? Allora io sono qui, ho notato che nessuno parla di questo scambio su Instagram. Belen che dice: amore, vieni tu a coprirmi. Iannone che risponde: ma lo sai che io vengo sempre. Vedo che siete in zona protetta, non parlate di queste cose, lo faremo dopo mezzanotte quando saremo liberi francamente di affrontare questo argomento, perché voi vi state molto deludendo. Una volta eravate alfieri di un giornalismo libero democratico, è arrivato Pardo, tutto il resto, siete diventati una trasmissione dorotea molto democristiana, una trasmissione censurata, sì. E detto questo, io spero veramente tanto però che domenica Dovizioso ce la faccia, perché ha detto una cosa bella prima domenicale 2007, prima che iniziasse la grande crisi globale, vedemmo una Ducati ridata con Stoner e una Ferrari mondiale con Raikkonen. Sono passati 10 anni, almeno a motori abbiamo recuperato la famosa caduta del PIL. Altrove, come vi spiegherà più tardi a Focus Economia Barisoni, no, ma almeno nei motori sì. E poi abbiamo anche Iannone che viene sempre lì con Belelle. In questo caso dopo mezzanotte. Questo va dopo protesta. Mezzanotte. Questo scambio l'ha visto solo. L'ha visto solo Turrini, dici? Berra sa tutto, non dice nulla, ho capito. Vabbè, tutto bene. Ci sentiamo presto, ragazzi. A presto, Leo Turrini. A presto, Leo Turrini. E ovviamente Roberto Ungaro, a presto anche con te, perché domenica. Qua, no? Comunque, il dato è che Dovizioso non è mai salito sul podio a Misano. Adesso, non per tirargliela, ma questo per significare. Vabbè, dovevi proprio dire così adesso. Che... No, ma fammi capire. Che insomma è un ma bel fammi weekend. Capire così. Ma dovevi proprio dirlo adesso? Ma per, sì, per mettermi di mano umore. Si fa per scaramanzia. Ma perché devi mettermi di mano umore il venerdì a quest'ora? Roby, ci sentiamo domenica. Sì. Puntuali sul pezzo come sempre. Puntuali sul pezzo come sempre, Roberto Ungaro, la nostra voce del motomondiale. Ovviamente ci ritroveremo con Giovanni Capuano alla guida domenica, tutti convocati weekend, e lì sarà solo l'imbarazzo della scelta. È una grande scelta, domenica, questa è una grandissima domenica. Ah no? Cioè, oltre a motori, cioè, volendoci la Vuelta, volendoci anche una giornata di campionato tutt'altro che banale. Vogliamo, c'è cioè il basket. Tutt'altro che banale, c'è Attenzione. Il basket, domani tifiamo tutti per l'Italia. Italia-Finlandia, mi chiedevano un pronostico, io non posso esimermi. Italia-Finlandia, uno fisso in schedina, quello è l'esperto di... Uno fisso. Uno fisso e non si discute. Domenica parliamo di tutto questo, ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Tutti convocati weekend, domenica 17, tutti convocati lunedì alle 14. Ciao, oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!